questo. RadioTube Social Village di Marta Cagnola. 16 e 7 minuti e 3 secondi, 3 secondi in più delle 16 e 7 minuti qui in diretta a Radio 24 per parlare come sempre di un sacco di argomenti fino alle 18 nelle due ore di RadioTube Social Village e della RadioTube Social Network. Mi sto incartando proprio all'inizio della trasmissione e saremo insieme in diretta fino alle 18. Ho tempo per due ore di papere. No, scherzi a parte, abbiamo un sacco di temi interessanti, un sacco di ospiti interessanti e parleremo anche di cinema questo fine settimana, parleremo di televisione, faremo come sempre dei viaggi, andremo a scoprire cosa esce di nuovo nella musica, perché si sa che a Natale escono un sacco di dischi, diciamo dalla fine di novembre in poi, perché poi ci si prepara per i regali, quindi è un momento caldissimo per la musica. Però, beh, insomma, uno dei nostri argomenti preferiti è quello delle serie televisive. A questo proposito vi ricordo anche che se avete qualche domanda in merito, 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i whatsapp. Poi ci sono i miei account di Twitter e di Instagram, @MartaCagnola, anzi ho già postato i nomi dei nostri ospiti, anche una foto con degli ospiti straordinari che ci sono venuti a trovare questo pomeriggio. Allora, serie TV che si intrecciano in questo periodo inevitabilmente con la cronaca brutta che arriva dagli Stati Uniti, il caso delle molestie, il problema di Kevin Spacey, insomma cosa sarà di House of Cards? Della notizia, delle notizie che arrivano anche dall'Italia parleremo nella seconda ora, parleremo in RadioTube Social Network, ma adesso parliamo proprio delle serie TV, perché insomma dopo lo scandalo delle molestie Kevin Spacey è stato sostanzialmente licenziato da Netflix, non farà più House of Cards, ma House of Cards si farà, cosa succederà? Non ne abbiamo ancora parlato, io sono molto curiosa di capire cosa sarà di questa serie e chissà se ci può dire qualcosa di più uno dei nostri amici di RadioTube, super super super esperto di serie TV, e ogni volta che arriva so che arrivano un sacco di domande per lui, per questo vi ricordo il 349-238-6666. Un saluto al fondatore di Serial Minds, ma anche channel manager della TV, di una delle TV più belle d'Italia, piena di film interessanti, poi ultimamente ha avuto anche delle grandi idee, Diego Castelli. Ciao Diego. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Insomma Diego, grandi idee, perché avete rispolverato dei classici in questo periodo a Iris. Abbiamo fatto cose un po' pazze. Cose un po' pazze. Siete andati a recuperare un grandissimo classico del quale parlano tutti, ma che non tanti avevano visto, come la corazzata Potemkin. Adesso finalmente la gente l'ha visto, perché l'avete fatto a Iris. Diego, allora, facciamo un po' il punto su questa House of Cards, perché, che dire, è comunque un punto di domanda per gli appassionati di serie TV dopo lo scandalo di Kevin Spacey. Tu cosa ne sai? Allora, la verità è che probabilmente ne sanno poco anche loro di quello che succederà, perché la situazione gli è esplosa fra le mani, se così possiamo dire, in un momento in cui la serie era già nella produzione della nuova stagione, avevano già girato due episodi e già scritto tutti gli episodi della stagione, in cui ovviamente c'era sempre Kevin Spacey. Nel momento in cui succede quello che succede e coinvolge anche delle persone che lavoravano in House of Cards, perché Kevin Spacey è stato accusato tra le molte persone, anche da 8 persone che lavoravano dentro House of Cards, Netflix a quel punto ha avuto le mani legate, se così possiamo dire. E a questo punto bisogna capire cosa succederà, perché ci sono un sacco di scenari possibili. Uno è anche quello che non ci sia più House of Cards, perché si potrebbe decidere che House of Cards senza Frank Underwood non ha senso, come non avrebbe senso La Signora in Giallo senza La Signora in Giallo, e quindi non si fa più. Cioè la storia, allora, della presidenza degli Stati Uniti senza il terribile presidente. Il presidente che parlava al pubblico guardando in macchina, cioè, ecco. Non stiamo parlando di una serie corale dove... Non è Game of Thrones, che se salta un personaggio va bene, muore uno ogni due settimane. Cioè, stiamo parlando sì, del protagonista vero della serie. E l'alternativa è in qualche modo tirarlo fuori, cioè cambiare la scrittura, rigirare i primi due episodi in modo tale che lui non ci sia più. Il finale della stagione precedente, di cui non diciamo eccessivi dettagli nel caso qualcuno l'avesse visto, comunque lascia pensare che ci possa essere un ruolo un po' più importante per la moglie, mm-hmm. che è interpretata Robin Wright, però allo stesso tempo di nuovo il problema si pone. Quindi una delle possibilità è farlo morire. Farlo morire però dovrebbe morire, siccome è escluso che Kevin Spacey riappaia in qualche forma. Ah, certo, andrebbe... non possono tirarlo fuori per farlo morire. No. Quindi dovrebbe morire, diciamo, tra le due stagioni. È una cosa che si può fare, si è fatta altre volte in passato in altre serie, in altri contesti. È una possibilità, tra l'altro sono in molti a dire che House of Cards comunque, pur essendo stata la prima serie di Netflix e quella che ha fatto esplodere un po' il fenomeno, aveva perso un pochino di mordente negli ultimissimi anni, e quindi in realtà già si parlava della possibilità che questa potesse essere l'ultima stagione. È chiaro che un'ultima stagione con il tuo protagonista è una cosa e senza è un'altra. Poi soprattutto quindi, dire la giriamo e poi vediamo quando mandarla in onda e fermi tutti, pare ci siano insomma diverse decine di persone che ci lavorano, si parla addirittura di 300 persone che erano al lavoro, quindi è qualcosa davvero molto delicato. È chiaro, senza se vogliamo essere cinici e tenere da parte qualunque tipo di ragionamento etico, morale e giudiziario, è chiaro che per Netflix è un problema serio dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del marketing. Cancelliamo una serie che piace, non la cancelliamo, come dici tu, ci sono tante persone che ci lavorano, però allo stesso tempo se viene brutta poi cosa ci dicono? Insomma, non vorrei essere nei loro panni, ecco. Possibilità che ci sia uno spin-off, cioè una serie derivata. Capita spesso che nelle serie americane, ma non solo, si generi con dei personaggi secondari una nuova serie. Io ti dico, ci ho visto un po' di schizofrenia in quel momento, nel senso che quando è venuto fuori la primissima accusa a Kevin Spacey, che non c'entrava in quel momento con House of Cards, l'annuncio che lui era stato a quel punto estromesso e la possibilità che ci sarebbero stati degli spin-off è uscita con una tale velocità che alcuni hanno addirittura detto ma non è che Netflix qualcosa sbudolava, piuttosto che, ora non facciamo ipotesi troppo ardite, però è chiaro che un po' il fatto, come ci siamo detti, che la serie già volgeva verso la fine, e comunque Netflix stava già facendo dei ragionamenti. Spin-off non lo so, ti posso dire che secondo me da spettatore non c'è un personaggio all'interno di House of Cards che abbia una forza tale da reggere una serie per tutto, secondo me. Qualcuno parla di Doug Stamper, il braccio destro di Frank Underwood. Però hai detto bene, è il braccio destro di Frank Underwood. Ah, ok, quindi dici, fai sparire lui e prendi il braccio destro. A parte che lui è un depresso allucinante e quindi immagino una serie pesantissima, ma a parte quello è veramente una... Poi abbiamo avuto altri casi in passato, perché nel momento in cui una cosa la scrivi bene ci puoi vendere qualunque cosa, no? Nel senso, però diciamo che a priori non riusciamo a immaginare uno di questi. L'unica davvero era la moglie, che aveva comunque un suo peso, però anche lì la sua forza era anche nel rapporto strano, particolare, un po' deviato anche lì, che aveva col marito. Quindi difficile pensare, vedere uno di questi da solo. Secondo me, con tutte le cose che produce Netflix, si andrà più verosimilmente verso la fine di questa serie nel modo più dignitoso e coerente che riescono a trovare, e poi arrivederci, poi parliamo d'altro. Anche perché ormai Netflix ha altre bandiere, diciamo, come Stranger Things. Non come... è più, esatto, non è più la serie di punta, che se non c'è quella allora non funziona più. Allora, Diego, ci sentiamo tra qualche istante, perché ho visto che su Serial Minds parlate di un sacco di serie nuove da scoprire, quindi visto che poi soprattutto ci prepariamo a una stagione fredda, quella da divanino, copertina, tisanina o cioccolata a seconda dei gusti, e magari vacanze di Natale da riempire con le serie TV, cominciamo a capire che cosa bolle in pentola, che cosa sta per arrivare di nuovo. Allora, una brevissima pausa, traffico, poi saremo ancora insieme con Diego Castelli. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Radio Tube Social Village. Beh, insomma, c'è poco da dire quando si sente questa colonna sonora. Allora, non parliamo di cinema. No, questa volta non parliamo di cinema per quanto riguarda Star Wars, perché io ho letto qualcosa su Serial Minds. Diego Castelli, che è ancora con noi collegato. Che cosa succede? Perché Star Wars? succede che fanno la serie TV di Star Wars e quindi tu dici adesso che arriva il freddo, la copertina. Sì, qua stiamo parlando di 2019. Beh, certo, questa non proprio questa non proprio subito, però ragazzi, questa è una bomba. Questa è una grossa notizia, sì. Hanno annunciato, già si sapeva che Disney voleva lanciare una specie di anti-Netflix, cioè una piattaforma di streaming online, però per ora quello che si sapeva è che avremmo potuto vedere il Re Leone in loop per tutto il giorno, no? Cioè avrebbero preso le, certo, le cose che già avevano, certo, per farle vedere. In realtà vogliono darci dentro e quindi produrre anche contenuti originali, pare in gran numero, e uno di questi, il primo che hanno in qualche modo citato subito, è stata una serie live action di Star Wars che copre, diciamo, un buco che si sentiva da decenni, perché se ne parla da decenni di questa cosa, dal momento che Star Wars è un franchise che oltre al cinema ha già toccato i fumetti, i videogiochi, anche la serialità televisiva, però d'animazione per ora, hanno fatto due o tre serie animate, peraltro molto belle, e allora è arrivato il momento di fare la serie live action. Cioè con attori veri in carne e ossa. Non si sa nulla, nel senso che non si sa chi la curerà, chi la scriverà, chi la dirigerà, il budget, non sappiamo niente, soprattutto non sappiamo la trama, cioè non sappiamo dove andrà a inserirsi. Certo, perché all'interno poi Star Wars è andato avanti e indietro nella cronologia a seconda delle... Sì, e poi lo Star Wars cinematografico parla della famiglia Skywalker, che sia quando c'è il nonno, che sia quando c'è il nipote, è alla famiglia Skywalker. Tutto quello che c'è oltre, romanzi, videogiochi, di solito è andato da altre parti, cioè all'interno del mondo di Star Wars, però raccontando tutt'altro. Io credo che la serie TV non potrà andare a toccare la trama dei film al cinema, tra l'altro è stata annunciata anche un'altra trilogia cinematografica, non credo che potrà toccare quella storia lì, perché veramente fa parte degli Star Wars con i numeri, cioè Star Wars episodi. Quindi secondo me la serie TV starà altrove, però davvero non sappiamo nulla. C'è tanto entusiasmo, io sono un ottimista di natura, quindi datemi più cose di Star Wars, sono contento. Poi c'è anche chi è preoccupato perché sente un po' troppo sbrodolamento del franchise. Beh, poi comunque è sempre l'esa maestà, perché sì, gli appassionati allora non vedono l'ora, ma sono pronti con la spada laser sguainata. Una serie di Star Wars brutta fa più male di una qualunque altra serie brutta. Però allo stesso tempo è vero anche che ci sono tanti contenuti di Star Wars oltre ai film che effettivamente sono venuti bene, le serie animate, ci sono diversi videogiochi splendidi di Star Wars, soprattutto un po' più vecchi più che quelli recenti, quindi hanno già fatto vedere che c'è margine per fare cose buone, quindi speriamo. Però appunto 2019 se va bene. Ecco, quindi con calma. No, invece con sono qualcosa che già in America è arrivato in questi giorni. Allora, io sono un po' orfana di Californication e mi dite che c'è una serie dei creatori Californication, ma soprattutto sono un po' orfana di Girls e in America, cioè, pare che ci sia una nuova Girls, perlomeno. Io l'ho letto anche su Serial Minds, Diego. Sì, noi magari ci siamo spinti un po' oltre perché, sai, devi attirare un po' l'attenzione. Dai, qui il click tempo, chiama. Esatto, si chiama Smilf ed va in onda su Showtime ed è creata da questa Frankie Shaw che aveva fatto un cortometraggio con lo stesso nome che era stato premiato in vari festival, molto, molto acclamato, e ne hanno fatto una serie TV. Ci azzardiamo a dire nuova Girls non perché stia creando in questo momento lo stesso rumore che Girls era riuscita a fare nei primi anni di vita, ma perché siamo più o meno nello stesso mood, cioè un'autrice donna che scrive, dirige, interpreta, fa tutto lei praticamente, e racconta di una... La protagonista è una madre single che in qualche modo cerca di tenere un equilibrio nella sua vita di madre, lavoratrice e anche romantica e sessuale. Cerca appunto di tenere un equilibrio difficile, perché comunque ci sono mille problemi. È una serie molto realistica tra 100.000 virgolette, nel senso che ci dà l'idea di una quotidianità che è lontana da qualunque glamour di serie TV più patinate, e ha altri dettagli in comune come l'uso del corpo che fa la protagonista in termini di rappresentazione appunto di una donna normale, in cui anche il corpo nudo è completamente liberato da qualunque tipo di erotismo e sensualità, come faceva Lena Dunham in Girls, che aveva perché lo usava per una funzione completamente diversa. E quindi da questo punto di vista qui ci abbiamo visto diversi punti di contatto, poi ci saranno anche un po' di guest star, ci saranno un po', vediamo. In questo momento è una cosa molto piccolina che però ci ha, sai, noi su Serial Minds cerchiamo sempre di trovare le cose che al di là di quanto possano essere di successo, ti diano qualcosina in più, ti diano un briz, qualcosina che dici, ah, questa è diversa. Quello che dobbiamo tenere d'occhio, ecco. Teniamola d'occhio, vediamo dove va. Allora, Diego, c'è un ascoltatore che al 349-238-6666 ha detto: abbiamo perso uno dei più grandi attori della storia, grazie Kevin. E effettivamente, allora, lui è ancora vivo, però la sua carriera, ma... Chissà. L'impressione nel suo caso, ma non solo nel suo, c'è stato Louis C.K. negli ultimi giorni, sì, che mi ha fatto quasi più male. Anche a me, da grande appassionata, ho molto sofferto. Siamo in lutto perché, come abbiamo scritto anche sulla nostra pagina, bisogna un po' scindere dal prodotto artistico, da chi lo fa, no? Quindi ciò che è stato fatto è ancora lì. Non è che American Beauty è diventato un brutto film perché Kevin Spacey forse aveva questi atteggiamenti e comportamenti. Allo stesso tempo è chiaro che adesso è difficile vederne di nuovi e quindi dobbiamo in qualche modo dare la colpa a loro del fatto che ci hanno privato della loro bravura. Verissimo. Delicatissimo questo argomento, effettivamente un grosso dispiacere. Abbiamo citato anche Louis C.K., mamma mia che dispiacere veramente grande. Grazie Diego Castelli, vi ricordo serialminds.com. Grazie Diego per essere stato con noi. Grazie. Torna presto. Grazie, ciao. Grazie, ciao Diego. Noi cosa facciamo? Beh, partiamo, andiamo via, partiamo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. La chiesa di San Pietro è un piccolo gioiello che si affaccia su di uno splendido panorama montuoso. Siamo a Quarazze, una frazione di Merano in Alto Adige. La città è nel cuore delle Alpi, in una conca che fa da punto di incontro tra la Val Passeria, la Val Venosta e la Val d'Adige. Merano è particolarmente adatta per chi desidera dedicare un momento al proprio benessere, in un contesto naturale unico. Le cure d'uva, i bagni alle mele e soprattutto le terme erano motivo di interesse già dal XIX secolo. E questo, come sempre, è il momento di partire. Facciamo una valigia, anche una piccola valigia. L'importante è mettere dentro quello che serve e prepararsi ascoltando la radioguida di Radio 24 e anche del Touring Club Italiano. Ne avete sentito un piccolissimo frammento, ma dove ci porta la radioguida questa settimana? Lo chiediamo subito ad Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao Marta. Ti porto in posti sempre fantastici e sempre per degli ottimi motivi. Questa settimana ti porto a Merano e dintorni, dove in questi giorni, è iniziato ieri, c'è il Merano Wine Festival, che è un evento straordinario. E noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo perché ci racconterà tutti i dettagli, Helmut Köscher, che è il presidente e fondatore del Merano Wine Festival. Salve! Salve, buongiorno. Allora, un'edizione quest'anno si conclude il 14 novembre intanto, che come sempre porta grande interesse, no? Sì, è un evento elitario ed elegante che si svolge al Kurhaus di Merano, che è veramente un edificio, un palazzo storico bellissimo, e quando ognuno entra in questo palazzo dice: questo è stato costruito per l'evento che si chiama Merano Wine Festival, e quindi si ha l'occasione di assaggiare oltre 1200 vini, e sono tutti vini selezionatissimi, e quindi sono delle commissioni d'assaggio che li hanno valutati e hanno valutato i migliori. E allora questi migliori sono presenti a Merano, e anche all'interno del settore che si chiama Gourmet Arena abbiamo le prelibatezze, 120 produttori di prelibatezze, birrerie artigianali selezionate, e a concludere il cerchio ci sono degli show cooking, che sono, c'è una performance tra chef stellati e contadine altoatesine. Ecco, quindi il vino è protagonista assoluto, ma insomma poi c'è anche il cibo e c'è un contorno. La manifestazione l'anno scorso ha generato un indotto di 8 milioni di euro, quindi insomma è una manifestazione oramai consolidata ed importante. Sì, perché gli 8 milioni è un calcolo abbastanza semplice da fare col numero di visitatori che ci sono, il pernottamento e il ristorante che pagano, viene fuori questa cifra, ma ormai è diventato molto importante per Merano, soprattutto perché è un periodo che sarebbe normalmente fuori stagione, è diventato la massima stagione con un evento come il Merano Wine Festival. E poi il Merano Wine Festival richiama l'attenzione anche a livelli internazionali, perché alla fine è una selezione dei migliori. 450 case vitivinicole, e quest'anno un giorno in più. Quest'anno un giorno in più, questo diciamo è un'idea che era venuta proprio per festeggiare il Merano Wine Festival in grande chiusura con lo champagne, e quindi è nato questo evento che si chiama Catwalk Champagne, con oltre 40 aziende presenti, oltre 120 champagne in degustazione. Un festival a tutto tondo, c'è anche un settore sul cinema, mi ha incuriosito questa cosa. Perfetto per me, davvero? Sì, ecco, questa è una cosa penso molto importante anche come contorno, avere anche la parte culturale, nella fattispecie il cinema. Abbiamo scelto un film che si chiama Noma, e questo è un film che riporta un po' la filosofia di questo ristorante famoso che per 4 anni consecutivi dal 2012 era stato nominato il miglior ristorante del mondo a Copenaghen. E tra l'altro questo ristorante Noma ha rivoluzionato nel vero senso della parola le carte dei vini nei ristoranti, perché è stato il primo che ha lanciato all'interno del proprio ristorante esclusivamente vini naturali, biologici, biodinamici. Io sogno di andare al Noma prima o poi, mi consolerò col film, e quindi non ci resta che andare a Merano, non ci resta che salutare Helmut Köcher, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi. E io preparo la valigina. Devi prima scaricare, però, sì? Non ti dimenticare, la radioguida di Radio 24 e del Touring Club, perché scopri anche tutti i posti straordinari che puoi visitare a Merano. Allora, vi dico la verità, Anna Rita se li era segnati, però non ha voglia di rischiare di sbagliare le pronunce. Ecco, sulle pronunce ho qualche problema, per cui vi invito a scaricare la radioguida. Grazie Anna Rita, al prossimo Grazie sabato. Grazie a voi. Radio Tube Social Village. Forza ragazzi, se c'è qualche cosa che volete portare via, questa è l'ultima occasione, eh? Che qui ora arriva l'antiquario e svuota tutto. Non ricominciamo, eravamo tutti d'accordo a vendere. Io no. 5 anni di Roma. Bella roba, col padre in fin de vita, se sono venduti la casa di famiglia. Quando? Vostro padre è un miracolo vivente. E mo chi glielo dice che abbiamo venduto casa? E vabbè, glielo diciamo tutti insieme. Sì, facciamo il corretto. Io sono molto contenta di parlare di questo film che esce tra qualche giorno, perché esce giovedì, ma sono venuti a trovarci oggi 3 attori fantastici, uno dei quali però questa volta si è cimentato anche alla regia. Vabbè, andiamo per ordine. Avete sentito un po' di audio, avete sentito un po' di trailer. Si intitola La casa di famiglia. Ci sono dei fratelli che sono Alex, Fanny, Oreste e Giacinto. Allora, sono dei fratelli che si vogliono molto bene, che vogliono molto bene al padre, ma questo padre purtroppo ha dei grossi problemi di salute. Cosa fanno? Uno di loro ha qualche difficoltà economica, vendono la casa, ovviamente all'insaputa del padre, che sta molto male, ma succede qualcosa per cui niente sarà come avete immaginato all'inizio del film. Il film è davvero molto carino, si intitola La casa di famiglia. Io intanto do il benvenuto al regista Augusto Fornari. Com'è il regista Augusto Fornari? Regista cinematografico ecco, Augusto Fornari. Non mi pare vero. Regista sì, ma sì, cinematografico. Cinematografico Augusto Fornari. È una gran cosa. E ha due fratelli, c'ha la sciarpa da regista, sì. Anzi, a saperlo, gli preparavamo anche la poltrona da regista. E due gemelli. Che non è che si proprio. Vogliamo sottolineare eterozigoti, io lo farei. Che non è che proprio sono somigliantissimi. Vabbè, insomma, abbiamo. Matriosco zigoti. Uno è la custodia dell'altro, senza di nuovo inutile. Li avete sentiti? Avete sentito le voci? Oreste, che è Stefano Fresi, e ciao. Giacinto Libero de Rienzo. Bonsoir. E poi ci sono anche gli altri due attori e fratelli che salutiamo, che sono Lino Guanciale e Matilde Gioli. E a questo punto salutiamo pure papà, che è Gigi Di Berti, strepitosamente. E che papà, ragazzi, che attore. Allora, io però parto dal regista cinematografico. Diciamolo spesso, per favore. Che effetto ti fa? Vabbè, noi ti abbiamo visto sullo schermo molte volte. Questa era un'opera teatrale, quindi tu la regia a teatro la maneggiavi già. Ma che effetto ti fa vederti sul cartellone del cinema? Beh, mi fa un buon effetto. Devo dire che è stata una cosa molto esaltante, direi proprio, perché insomma costruisci le storie, costruisci. Poi l'ho fatto con Stefano, che è diciamo un fratello vero, nel senso che è quasi un fratello. Ho saputo che vi conoscete da qualche annetto. Beh, una trentina. Una trentina. Vogliamo dire una trentina, sì. Una trentina perché abbiamo iniziato insieme praticamente. E siamo davvero parenti perché la sorella sposò a suo tempo Illo Tempro, il mio fratello, che è pure nel film, Tony Fornari, che è co-sceneggiatore insieme Fantastico. A Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. E, insomma, quindi siamo davvero. La casa di famiglia era giusta come titolo. E poi devo dire che ho incontrato un gruppo di attori davvero sopraffini, perché cioè, Libero di Rienzo, che adesso tu lo vedi così, ma è davvero straordinario in questo film. Lo vedo così, gli ascoltatori non possono sapere. Gli ascoltatori non possono sapere, io lo vedo un bellissimo ragazzo come al solito. Passatello ormai. Comincia adesso. Poi vabbè, Matilde. Che poi c'è Matilde Giori, che è spettacolare, un'attrice davvero. A Roma si dice, si può dire una cosa romana, de panza, un'attrice davvero dionisiaca, molto, insomma, molto forte. E poi c'è Nino Guanciale, che ormai è l'idolo di tutte le signore che guardano la TV. Mia zia ha visto il trailer e ha detto: devo andare al cinema a vedere il film di Nino Guanciale, quindi sappiatelo, cioè le signore. Posso fare un appello? Sì. A tutte le fan di Lino Guanciale, vi prego, smettetela di scrivere a me per arrivare a lui. Cioè, ti chiedono l'intercessione. Non hai idea. Mi fai fare un video da parte di Lino per gli auguri? Senti, ma Lino non è tanto social, glielo puoi dire tu? Ma una cosa non hai idea. Ragazzi, infatti, io vedo questa moltiplicazione dei miei follower, penso con orgoglio, che in realtà sono un unico mezzo per arrivare a Lino Guanciale. Vabbè, ragazzi, qua Lino Guanciale è il momento. Anche se poi pure voi due adesso avete svariati film. Usciti e uscenti, quindi. Sì, ma in realtà questo è il primo, questo La casa di famiglia è il primo film che io e Libero facciamo insieme, nel senso, la prima volta ci rivolgiamo la parola, certo. Perché nei tre smetto quando voglio non abbiamo mai interagito, mai. Non parlavamo, stavamo sempre insieme, non abbiamo mai, ma mai diciamo, forse mai ce n'è una parola, forse, una nel ma tre, per sbaglio nel tre. Sì, esatto. Ma invece in questo interagite parecchio, perché siete una coppia di fratelli gemelli, appunto, anche se un po' diversi, che hanno qualche attrito, perché la commedia è bella. Bella se, no, come la commedia non è bella se non è litigarella. Eh sì, poi peraltro loro erano molto contenti di farlo proprio per questa ragione. Grazie Augusto, così almeno possiamo parlarci. Ho detto, mi dispiace, ma per gran parte del film non parlerete perché non andate d'accordo. Sulle palle. Giustamente. Io ho trovato grandissima grazia. Sì. Cioè mi immagino chi andrà a vederlo, si organizza una serata con gli amici. Entra con un po' di aspettative, esce con qualche sorriso, con un po' di serenità. Voi che cosa vorreste che si portassero a casa gli spettatori quando escono e dicono? Però la voglia di portarci subito un'altra persona. Ah, ecco. Ma non lo dico per il botteghino. Per il mero botteghino. Lo dico proprio perché quando assaggi un buon vino non vedi l'ora di versarlo a chi hai di fronte, no? Essendo finalmente, pare, non gli abbiamo ancora fatto il funerale, forse glielo faremo quest'anno, morto il cine panettone. Sì, mi sa che se non è morto. Scusa, francese. No, ma infatti la tocca piano, ma con questo invece è un film che io invece avrei voluto vedere a Natale, anche se a Natale non stiamo parlando di quelle, come parla proprio di quella sensazione quando dice: che palle, devo andare per forza, che stanno tutti i miei padri, le sorelle, le cose. e sono situazioni spesso di grande tensione, perché hanno tutte cose non dette, quello che ha preso i soldi, quello che hanno litigato, però un amore di fondo gigante che genera quel meccanismo tipo di Tesla, no? di corrente tra una cosa e l'altra, che alla fine nel film, che ha un'anima anche sì ridanciana, divertente, ma c'è la cosa, credo, come diceva Stefano, più importante, almeno per me, io ho 40 anni, ho un figlio, una moglie della mia vita, che è i miei familiari, cioè questi sono costretti per un problema a stare insieme come a Natale. E poi dopo sembra che ci vanno a tornare, però che vogliono far presto Pasqua, che vogliono far subito, arrivi subito Pasqua, che arrivi subito la possibilità. Vabbè, quindi andiamo a vederlo per entrare nello spirito. Mi piace moltissimo. Sapete una cosa, io non sopporto i film in cui c'è qualcuno che fa il musicista e non sa suonare. Io divento matta quando c'è qualcuno che finge di suonare. Stavolta Cioè, Augusto, hai preso uno che sa suonare. Beh, per il musicista? Sì, sì. Neanche male. Neanche male, perché Stefano fa il pianista. È un, un compositore pianista. Quello che mi ha fatto suonare Rachmaninoff. Come faccio a non volergli bene? Ma certo. Vabbè, finalmente. Penso, io ho fatto 40 film senza saper recitare. Perché... Vabbè, straordinario. E una delle cose più irresistibili è che il fratello scapestrato e il fratello quello più così più a posto, o io avrei pensato che quello scapestrato era Libero di Rienzo, quello più a posto Lino Guanciale, invece ci freghi tutti. Sì, ma io devo dire che adesso io non, lo so che lui me ne vorrà perché non gli piacciono queste cose, però io devo dire che Libero ha davvero fatto un grande lavoro. Come tutti quanti, perché sono tutti straordinari. Libero ha fatto un lavoro davvero, ecco, prima parlava di concentrarsi, il fuori, il dentro, quel discorso che ha fatto che è molto, diciamo, se vogliamo anche tecnico, no? Perché riguarda molto l'attore e il lavoro dell'attore. Ecco, lui quel lavoro là, ho la sensazione, non vorrei adesso fare un complimento perché sennò poi comincia a sfancularmi qua vicino. Smoccia e se ne va, però in realtà ha fatto è un attore di grande pudore, ha un grande senso di... alle tre cose che dicevano uno dei miei maestri, che dicevano che per fare l'attore ci vuole l'orrore di se stessi, la vergogna della presenza. Ecco, lui ha la vergogna della presenza, un grande pudore. Virgilio Zernitz. Virgilio Zernitz, sì. e questi sono gente che ha studiato, mica mica no. Per me non è stato facile, perché il mio protagonista, il mio personaggio quasi non parla. No, una cosa che mi ha detto lui: non ho mai parlato così poco al cinema. È difficile, eh? Sì. Difficile stare e non parlare e essere. E questo succede se c'è qualcosa che sta succedendo, altrimenti lei dice: vabbè, che faccio qua? Dico niente, posso parlare pure io. Ma i primi due o tre giorni di lavorazione, lui tentava: ma qui non potrei dire sta cosa. No, aspetta un attimo. Quando è entrato nel mood e ha capito che cosa stava facendo, perché poi sono entrati anche loro in un'empatia straordinaria. Eh beh, sì, perché poi alla fine devi costruire il coro. No, ma loro sono stati davvero straordinari. Io li vedevo, avevamo pochissimo tempo per girare, diciamo, rispetto al volume anche del lavoro da portare avanti. E loro, io li vedevo beati in questa casa meravigliosa, in questi giardini, che scherzavano, giocavano. Un po' lì io dicevo: perché io non sto facendo questo film con loro? Invece con tutti questi grattacapi che devo risolvere le cose da... Però li guardavo e dicevo: che belli, guarda. Perché se non c'eri come regista non c'era quel clima, quindi non l'avresti vissuto così. Beh, poi tra l'altro so quindi... che mi hanno detto fuori onda che c'è stato un abbraccio all'ultimo Chuck, un po' di commozione. C'è stato. Beh, quella è una storia, diciamo, anche come dicevamo prima, personale, yes, molto forte. Cioè, noi abbiamo iniziato nei teatrini off della città di Roma, insomma, fare piccole cose, piccolissime. Abbiamo lavorato molti anni, quindi scavalca montagne veri. Sì, abbiamo fatto tante cose, tantissime cose, ma proprio lui mi raccontava che ha trovato delle cose che facevamo noi, ha messo un archivio e c'è mezza libreria di casa con le partiture nostra, che ho scritto, cioè, i copioni nostri, ma veramente una fetta di libreria importante. Che bello, che bella storia. Augusto, ci hai preso gusto? Io ci avrei preso gusto. Preso gusto. Adesso vediamo che succede. Va bene, allora facciamo così. Voi da giovedì prossimo, se volete passare una serata o anche un pomeriggio, quelle domeniche pomeriggio così un po' uggiose, con quel tempo un po' grigio di novembre, in cui sentite già quella bella voglia di famiglia, quella bella voglia di Natale, oppure al contrario, il pensiero di dover passare il Natale o le feste con la famiglia vi viene già un po' di fastidio, allora io vi consiglio di andare a vedere La Casa di Famiglia. Esce giovedì, ricordatevi. Allora io ringrazio moltissimo Libero, ringrazio Augusto, ringrazio Stefano, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, meravigliosi, ciao. Stufe e caminetti, la nordica extra flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta RadioTube Social Village. Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a Hollis, Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per per la botte piena e per la moglie ubriaca, la base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez è stato ben attivo per Walk This Way, e quando senti il richiamo della foresta è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza. In questo momento è il numero uno nelle tendenze di YouTube in Italia, Oh vita di Jovanotti. Allora fatemi vedere da vicino, è scritto piccolino, 396.026 visualizzazioni in questo momento per questo video che è stato pubblicato il 10 novembre, quindi insomma a pochissime ore di vita questo Oh vita. Singolo che dà il nome al nuovo album di Lorenzo Jovanotti in uscita il 1 dicembre. La stampa qualche giorno fa titolava l'autunno caldo del mercato discografico, in questo bel pezzo di Piero Negri raccontava come insomma alla fine questa è la stagione più calda, stagione più fredda, la stagione più calda, perché escono un sacco di dischi, il Natale è un'occasione ghiottissima per le uscite, quindi andiamo a sentire un po' di novità da tenere d'occhio, appunto magari per fare già la letterina Babbo Natale, oppure pensare a qualche pensierino per gli amici, un disco, un CD o un vinile sono sempre un'ottima occasione per fare un regalo, per dimostrare il proprio affetto. E io sono contentissima perché ritorna un'amica del nostro sabato pomeriggio, ritorna a Radio Tube Social Village la nostra Chiara Di Giambattista. Ciao Chiara! Ciao Marta, ciao a che tutti. Che bello, rieccoti. Allora, questo Jovanotti come ti pare in attesa di sentire il disco? Volevo il primo dirti che di dicembre? Io sono una di 396.000 che ha visto il video, ecco. Sono una di quelli che lo ha visto e rivisto più volte, quindi credo che il contatore l'ho fatto salire anche un bel po'. L'ho già scaricata, sono già pronta, ho già acquistato il disco in pre-order e l'altra sera ero davanti al televisore come una ragazzina ad aspettare la preview del video su Rai 1 che è andata in onda giovedì sera, e ti devo dire che mi sono molto emozionata perché c'è stato un grande ritorno alle sue origini, nel senso che chi segue Lorenzo Jovanotti, come è tornato a chiamarsi, perché poi lui era un sacco di tempo che sulle copertine dei dischi non si chiamava Jovanotti, era dai tempi della Tribù che Balla, mentre invece sulla cover del disco c'è scritto Jovanotti, quindi torna a chiamarsi espressamente anche lì, nero su bianco, con il suo vecchio nome. Questa è una canzone che, oltre, diciamo, proprio per la struttura della canzone, torna a un po' alle sue origini anni 90, ma anche per quello che c'è nel video, perché lui nel video c'è spoilerato tutta la sua infanzia, perché c'è la sua vecchia casa vicino San Pietro qui a Roma, ci sono tutte le sue, c'è la sua scuola, il mercato sotto casa sua, ci sono tutta una serie di anche di, è un po' un gioco, no? Andare a pescare all'interno del video tutte le citazioni che ci sono. Tra l'altro c'è una bellissima citazione anche dedicata a Primo, il rapper romano dei Corveleno, che è scomparso nel 2016, certo, che lui ricorda nel video, ed è stata una cosa molto bella e che hanno notato tutti, hanno trovato tutti molto, molto tenera come citazione. E insomma, a me è piaciuto molto al primo ascolto. Sarà che chi segue Lorenzo dall'inizio conosce bene anche il suo percorso, e questo è stato veramente un tributo, anche un po' mettere un punto. Devo dire che ci aspettiamo poi tutti molto dal disco nuovo, che come dicevi tu uscirà il 1 dicembre. Ci sarà anche un documentario che uscirà in quei giorni nei cinema, che racconterà come è stato realizzato questo disco, ma ci sarà anche l'apertura di questo temporary store a Milano per qualche giorno, il Jova Pop Shop. Ci sarà un tour, quindi insomma a tutto Lorenzo nei non prossimi mesi non si fa mancare niente, e noi lo seguiremo, ecco. Allora alle 15 il nostro aperitivo con 140 caratteri, al quale ovviamente cambieremo nome perché ormai i caratteri sono 280 e vabbè, di più, quindi ci penseremo nelle prossime settimane. Abbiamo avuto Biagio Antonacci che ha fatto un discone alla Biagio, ma la prossima settimana ci sono dei nomi di tutto rispetto, insomma c'è il più giovane degli artisti italiani, che ormai si è capito che è Gianni Morandi. Ma assolutamente, Gianni Morandi, ragazzi, niente, lui è avanti a tutti. Volevo dirvi questo, se non me ne foste accorti, perché poi lui è il più bravo a usare i social, è il più bravo a mantenersi, anche l'abbiamo visto nelle sue collaborazioni con Rovazzi, ma è quello che comunque è è sempre stato capace, soprattutto negli ultimi anni, di guardarsi intorno con grande curiosità, e forse è questo che lo rende sempre anche poi così grande e così bravo, perché qualche giorno fa, tra l'altro, lui ha pubblicato la tracklist di questo disco, che uscirà fra poco, uscirà, sarà presentato il 16 novembre, e soltanto a leggere diciamo, i nomi degli autori, delle canzoni, insomma, si fa un bel salto, perché c'è Ivano Fossati, Tommaso Paradiso, Levante, Giuliano San Giorgio, Elisa, Ermal Meta, Paolo Conte, insomma ci sono grandi nomi proprio su questo disco, e devo dire che in questo, proprio scegliendo nomi ad esempio, non so, come Ermal Meta, appunto, come Tommaso Paradiso o Levante, dimostra di essere molto attento a quello che gli succede intorno, quindi molto curioso, e io veramente sono veramente molto curiosa di ascoltare che cosa uscirà fuori, e anche di vederlo dal vivo, perché mi ricordo di averlo visto qualche anno fa all'Arena di Verona ed essere rimasta totalmente impressionata dalla sua energia. Io solo a vederlo fare 20 minuti di spettacolo già ero stanca, e lui l'ha fatto 3 ore, e quindi è sempre il numero uno, Gianni, non c'è niente da dire. Sono d'accordo. In arrivo anche questo Zucchero, Zucchero però con un Best, grande stagione di Best. Una grande stagione di Best. Parlavi di regali di Natale. Beh, ti devo dire che Zucchero dà proprio l'occasione per fare dei regali di Natale, perché tra l'altro uscirà questa edizione super deluxe dove dentro ci saranno 10 dischi, c'è un disco dal vivo in inglese, uno in spagnolo, un disco di duetti e collaborazioni, un vinile, insomma c'è un po' di tutto. È un po' anche qui mettere un punto ad un certo momento della propria carriera, no? Nel senso che questo si chiama Wanted, tra l'altro la faccia che sta sulla copertina è veramente da Wanted, da ricercato, ce l'ha voluta fare proprio con quell'intento lì. Vado un a po' cercarla, vado a spiarla. Brutti, sporchi e cattivi, comunque la faccia un po' così che a noi ci piace molto. C'è quella faccia un po' così che a noi ci piace tanto. E è un po' appunto, arriva dopo questo Black Cat World Tour che è stato pazzesco, ha fatto una cosa come credo 22 date all'Arena di Verona. E tra l'altro martedì su Canale 5 ci sarà in prima serata, appunto, verrà trasmesso il concerto di Zucchero che va a raccontare proprio questo tour, e lui ha voluto raccontare un po' per decenni, perché poi anche i CD all'interno sono divisi per periodi, però ci mette veramente tutto, ci mette Dune Mosse, Diamante, ci mette veramente anche partendo proprio dalle sue origini e arrivando fino ad oggi, quindi bisogna dire che anche lui, io mi sono andata a riguardare le sue canzoni, e veramente Zucchero è uno di quelli che non ha sbagliato un colpo, cioè ogni volta che ha tirato fuori un pezzo era sempre un grandissimo successo, e insomma poi appunto le 22 date fatte all'Arena di Verona e tutti i grandi concerti che ha fatto, devo dire che sono una grande testimonianza, quindi cioè, e poi senti, io per ultimo però tra poco ci dobbiamo salutare, io ti devo colpire al cuore, perché dimmi cosa ti ha colpito. Cristina D'Avena. L'abbiamo anticipato la scorsa settimana, questo duets, ti è piaciuto, Chiara? Tantissimo, cioè io sono pazza di lei, cioè a parte che ti devo dire che Lady Oscar fatta da Noemi mi è piaciuta moltissimo, Gem super rock fatta con Emma, io cioè, la genialità di fare il pezzo di Holly Benji con Benji e Fede, io niente, sono caduta dalla sedia, l'ho detto vabbè, ma siete dei geni. Sailor Moon fatta con Chiara, che insomma, poi tra l'altro lei ha raccontato che queste canzoni le ha scelte anche grazie agli artisti con cui ha duettato, perché un po' ha indagato su quali fossero le loro canzoni preferite da ragazzini, ed è bello il fatto che gliel'abbia fatta cantare, e quindi devo dire che anche in questo ha dimostrato di essere assolutamente la numero uno, perché Cristina D'Avena è proprio, cioè, pensare che è riuscita a far cantare Pollon con Minaguai a J-Ax, io sono veramente impazzita, oppure Occhi di Gatto a Loredana Bertè, questa no, è fantastica, vabbè. Ha fatto la telefonata e dice che Loredana Bertè già gli cantava al telefono, capisci? Livelli altissimi, fantastica. Chiara, allora voglio ricordare prima di chiudere al volo il tuo account di Twitter, @ Chiara di Giamba 1 con il numerino. Grazie Chiara per essere stata con noi, Chiara di Giambattista, grazie Chiara. Un bacione, ciao Marta. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il GR.